Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Finalmente siamo tornati insieme, sono le 11.08. Siamo pronti per il nostro sommario. Laura Vanossi è in redazione, Carmelo Lauricelli in regia alla parte tecnica. Andiamo a sentire i temi di oggi. Smile, un sorriso di salute e di benessere. Autoshatsu, il tocco che cura. Tabebuia, una pianta da scoprire. Allora, per affrontare il tema di oggi vi suggerisco un esercizio di riscaldamento, chiamiamolo così. Sorridete e provate a pensare quante volte lo fate durante la giornata, se la cosa vi viene spontanea, naturale o invece dovete quasi imporvela, sforzarvi un po', insomma. Mi piacerebbe che grazie alle vostre telefonate e all'aiuto degli ospiti che ho in studio e in linea e che vi presenterò tra poco, provassimo a pensare al nostro sorriso nella sua duplice funzione. Come strumento di comunicazione, qualcuno l'ha definito il miglior lubrificante dei rapporti personali, ma anche come specchio della nostra salute. In linea con noi è tornata a trovarci la dottoressa Adele Fantoni, medico chirurgo specialista in odontoiatria e ortodonzia infantile presso l'azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano. Buongiorno dottoressa, bentornata. Buongiorno dottoressa Carbone e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Dottoressa Fantoni, lei si occuperà dei nostri bambini. Con molto piacere. Bene, quindi siamo in ottime mani. Qua in studio con me è tornata a trovarci la dottoressa Fabia Schoss, psicologa, psicoterapeuta ed esperta in tecniche di rilassamento. Buongiorno. Buongiorno. Ci ha tenuto compagnia tutto agosto. Buongiorno. Buongiorno, e ci sorridiamo. E sorridiamo anche al nostro ospite, il professor Andrea Stramezzi, che è in studio con me, professore a contratto all'Università di Pavia e specialista in ortodonzia. Riassumo in modo anche incompleto direi la sua qualifica, perché professore lei si occupa anche della nostra occlusione, di come teniamo chiusa la nostra bocca. Esattamente. Beh, buongiorno innanzitutto anche alla dottoressa Fantoni e agli ascoltatori. Le influenze che la nostra occlusione ha su distretti molto distanti che sembrerebbero non centrare nulla, dalla postura, quindi i problemi del colonna vertebrale, mal di testa, fino addirittura al strabismo in oculistico, al giramento di testa in otorino, eccetera, eccetera. Sorridere fa bene, professore? Fa molto bene, assolutamente. Che cosa? Ci rilassa, ci rende più simpatici? Ci rilassa, ci predispone meglio anche ai contatti con gli altri e soprattutto favorisce i contatti interpersonali. Diceva oggi a Franco Alberoni, mio amico, che sul Corriere, se uno ha la mentalità aperta, quando ci viene incontro ci sorride. 800 24 0024, iniziate subito a chiamare il nostro numero verde, meglio se con un sorriso. Dottoressa Fantoni, iniziamo a guardare i nostri bambini. Guardiamoli subito. Cos'è un bel sorriso per un bambino? Intanto è importante, come accennava il professor Stramezzi, perché il nostro cervello è in grado di copiare e di imitare, e questo grazie a cellule nervose presenti chiamate neurone specchio. L'atto del sorridere intanto è innato, i bambini ce l'hanno da subito, fin dalle prime ore di vita. Persino i bambini ciechi e sordi. E questo perché? Perché è importante che un sorriso ci predisponga bene nei confronti degli altri. Un sorriso bello di un bambino è un sorriso che manifesta la sua salute, al di là del fatto che possa aver perso qualche dente, deve essere un sorriso aperto, chiaro, pulito, vuol dire che il bambino non ha mal di denti, vuol dire che il bambino sta bene. Professore, andiamo con lei davanti allo specchio. Ci dica che cosa dobbiamo guardare del nostro sorriso per avere qualche indicazione importante e poi riferirla a lei in modo che ci possa dare una mano. Beh, direi soprattutto l'armonia. L'armonia di un sorriso, vale a dire la simmetria di un sorriso, la giusta proporzione del cranio con la parte inferiore della bocca, quindi la mandibola, in realtà ci dà un concetto di armonia e quindi di bellezza. Se una persona ha un'inclinazione del mascellare, cioè il mascellare un po' storto, noi non ce ne rendiamo conto, però abbiamo un aspetto di bruttezza maggiore. basta reinclinare il sorriso, dare le giuste proporzioni tra la parte superiore e bassa del viso e automaticamente uno è più bello, si sente più bello. Dottoressa Schoss, noi siamo tipi, due donne che sorridono, ma adesso sorridere davanti al professore magari ci scopre delle magagne, quindi facciamo dei mezzi sorrisi. Invece il sorriso è importante, vero, per è la molto nostra importante. Al di là della bellezza, ci rende comunque tutti più belli. Certo. E poi, come diceva il professore, per esempio, quando io vedo una faccia particolarmente tesa e propongo subito di fare un bel respiro e di sorridere mentre si espira. Proviamo allora a farlo, subito un esercizio e poi parleremo naturalmente di sorrisi belli e sani. Certo. Proviamo a fare un esercizio allora. Un esercizio è fare una bella respirazione, inspiro e mentre espiro sorrido. Se noi ogni volta che ci sentiamo veramente irritati, arrabbiati, facessimo tre bei respiri, espirando con un sorriso, toglieremmo molta stanchezza dalla nostra faccia, qualunque sia la nostra età. Infatti mi diceva la dottoressa Schoss che il sorriso è la voce del cuore. Certo, secondo la medicina tradizionale cinese il sorriso è la voce del cuore. Ci sono però persone che, lo sappiamo, non sorridono perché non hanno una bella bocca, non hanno denti sani oppure hanno dei complessi. Quindi noi siamo pronti qui a raccogliere le vostre telefonate con i vostri dubbi, piccoli problemi. Gran parte di questi possono essere risolti. 800 24 0024 è il nostro numero verde e direi che il motto della puntata di oggi è: un giorno senza un sorriso è un giorno perso, scritto da Charlie Chaplin. Quindi se volete suggerirci altri motti, potete scriverci al 349-238-6666. Una mela al giorno. È un toccasana per le tensioni che accumuliamo durante la giornata, migliora anche la nostra postura, aiuta le nostre articolazioni a stare meglio, non è un elisir di lunga vita, ma sto parlando dello shiatsu, un tocco di vero benessere. In linea con noi abbiamo il professor Fulvio Palombini, reumatologo e docente in fisioterapia all'Università La Sapienza di Roma, all'Ospedale Sant'Andrea. Professore, buongiorno. Buongiorno e bentrovati. Allora, lo shiatsu possiamo farcelo anche da soli, quindi autosciazziamoci? Come no, l'autosciazzo è molto importante per la salute, il benessere, e sentivo prima per il sorriso, il cuore dello shiatsu è proprio il sorriso, ridare il sorriso alla gente. Quindi lo diceva sempre il grande maestro, non si può fare shiatsu, il grande maestro Namikoshi, l'inventore dello shiatsu, non si può fare shiatsu senza sorridere, quindi mi fa piacere quello che ho sentito prima in trasmissione. Professor Palombini, utilizziamo allora l'autoshiatsu per alleviare alcuni piccoli disturbi magari di stagione. Io mi metto nelle sue mani perché mi sento un po' di mal di gola, ho preso freddo in queste, sembra strano, un colpo di aria condizionata, ero al Festival della Salute di Viareggio, si vede che mi sono fatta una sudata, raffreddore, ho la testa pesante, ma molti ascoltatori, penso che in questa stagione, vedo molti dei nostri colleghi che insomma stanno combattendo col raffreddore, naso chiuso, la testa pesante. Allora, ci dà un qualche esercizio di autoshiatsu? Come no, volentieri. Volevo solamente dire una cosa molto interessante: in questo momento al Sant'Andrea di Roma si sta facendo una ricerca molto importante sul mal di testa dei bambini e si stanno ottenendo dei risultati molto, molto particolari, spero che verranno pubblicati presto. Quindi questo ci dice quanto lo shiatsu possa intervenire in questi fastidi del cranio e del viso. Professore, comunque, aspettiamo i risultati in anteprima, Appena volentieri. Li pubblicate, noi siamo qua. Ben volentieri, sarà la prima a vederli. Bene, bene. Allora, davanti a uno specchio possibilmente, o se no, quando si aspetta il semaforo rosso, non ogni momento è buono, pur di non perdere l'attenzione alla guida, naturalmente. Ci si mette seduti comodi, si fa un bel respiro, come al solito, e poi con le due mani, con le quattro dita, si fanno delle pressioni, dell'attaccatura della fronte, e si fanno quattro pressioni lungo la linea mediana del cranio, fino alla base del cranio, con una certa intensità, sempre contando fino a 3, 1, 2, 3, si rilassa la pressione e si continua, ripeto, la linea mediana del cranio fino alla quella base dove del di solito fondo. Facciamo la riga dei capelli, per brava, intenderci. Brava, esattamente. e lì proprio si fanno le pressioni intense con tutte e due le mani, con il polpastrelli. Sappiamo ormai com'è la pressione dopo tanti incontri, una pressione piuttosto intensa, e deve quasi esercitare un po' di fastidietto, ma poi diventa piacevole. Lì è il trucco dell'autoshiatsu. Poi noi siamo bravi perché ce la facciamo da soli, quindi riusciamo a sentire bene questa sensazione, una pressione piuttosto intensa ma piacevole, e si ripete per diverse volte lungo la linea mediana del cranio fino alla base del collo. Questo si fa 4-5 volte. Poi due punti molto importanti, che questa volta si eseguono con il polpastrello del pollice, sì. L'angolo interno dell'occhio. L'angolo interno dell'occhio. L'angolo interno dell'occhio, riusciamo a capire qual è l'angolo, quello vicino al naso. Sì. È quello vicino al naso. Lì bisogna fare proprio delle pressioni piuttosto intense proprio con il polpastrello, con la parte morbida del dito, e dobbiamo esercitare delle pressioni piuttosto prolungate, questa volta un po' più prolungate, quasi 5 secondi. 1, 2, 3, 4, 5 e si rilassa la pressione. Questo fatto 5-6 volte. E poi invece con quella che si chiama eminenza tenare della mano, che è quella parte un po' carnosa sotto il pollice, sì. Con tutte e due le mani insieme, delle pressioni piuttosto prolungate sulle tempie. 1, 2, 3, 4, 5, si fanno anche queste volte 2-3 volte, si finisce con la mano destra che pressiona sul trapezio di sinistra, quindi si incrocia, sì. La pressione. Sopra la clavicola, insomma, no? Sì, brava, proprio sopra la clavicola, dove c'è il trapezio, quel grande muscolo, e con le quattro dita della mano destra si pressiona con forza sul trapezio di sinistra e poi si fa... dall'altro lato. Mi viene proprio da dire, che sollievo, professor Palombini. mi è passato il raffreddore, sto meglio. Provare per credere. Già mi sta scrivendo al 349-238-6666 Antonio, dice: non riesco a prendere gli appunti. Ma naturalmente, come sempre, le puntate di Essere Benessere possono essere scaricate, per cui si può sentire il professor Palombini nuovamente, quindi farsi accompagnare passo passo nell'esecuzione di questi esercizi, e il professore tanto ritorna spesso a trovarci, quindi possiamo raccontargli i nostri piccoli acciacchi e lui ci insegnerà ad utilizzare le nostre dita per liberarcene. Professore, buona giornata e grazie. Grazie, buona giornata a tutti, grazie. Pronto soccorso. La vita è più semplice se si affronta con un sorriso, e se è un bel sorriso diventa anche più bella per noi e per chi ci sta accanto. Voi che ne dite? Io ne sono fermamente convinta. Allora restate, chiamateci per sorridere di più, sorridere meglio e offrire anche sorrisi più belli. 800 24 00 24. Abbiamo detto, e le ricerche lo dimostrano, vero dottoressa Schoss, che a guadagnarci sarà anche la nostra salute emotiva. Certo. Infatti, pensiamo anche a ridere di noi. Perché... questo è molto difficile, vero? Ridiamo più spesso degli altri. Ma è anche questo molto importante, perché ridendo di sé si possono accettare i propri limiti, si può cambiare e soprattutto si può ricominciare. Io approfitterò oggi, e potete naturalmente approfittarne anche voi, della dottoressa Schoss per cercare un po' di interpretare il linguaggio del sorriso. I bambini hanno un sorriso che significa sempre gioia, affetto, tenerezza, abbandono, fiducia nell'altro. Quando cresciamo il sorriso prende significati diversi, no? Ce ne sono, c'è il sorriso ironico, quello sfottente, quello un po' il sorriso invidioso. Quindi raccontateci un po' i sorrisi che vi stanno attorno, ma io darei subito la linea Francesco, che ci chiama da Milano. Buongiorno Francesco. Buongiorno. Intanto buongiorno. La saluto con un sorriso, così mi alleno anch'io. Guardi, io volevo chiedere al dottore. Sì. Ho la masticazione al contrario e purtroppo il mio sorriso è proprio debole e misero. Se si poteva fare qualche esercizio o qualcosa per perdere. Senta Francesco, io il professor Stramezzi e la dottoressa Fantoni naturalmente come clinici le daranno una mano. Io sono certa che se il sorriso viene dal cuore è sempre un sorriso bello, perché si accompagna anche a una luce che è negli occhi, che è il suo degno correlato, e quindi sicuramente il suo sorriso, il sorriso che lei regala agli altri, sarà sicuramente un sorriso che arriva. Comunque noi abbiamo il nostro professor Stramezzi che sicuramente può darle un'indicazione. Professore, Ma intanto vorrei farle una piccola critica, perché è una critica che devo fare a tutti i pazienti che non credono di avere un bel sorriso. Anche se uno non ha un bel sorriso, sorrida lo stesso. Non limitate, come lei ha detto, limitiamoci nel sorriso, perché sennò ci guarda male. No, assolutamente, non limitate, non vergognatevi del vostro sorriso, mai. Il sorriso è una cosa splendida, è una cosa che arricchisce moltissimo chi lo riceve, continuo a dire, e non impoverisce chi lo dà. Ma soprattutto anche in situazioni di emergenza, quello che ci guarda male, quello che vorrebbe magari fare a pugni con noi, un bel sorriso diventa disarmante. Sì, è vero. Su quello che invece si può fare con una masticazione non corretta, sì, assolutamente, gli esercizi sono fondamentali, perché la cosa bella della natura, quello che ha fatto il buon Dio per la nostra masticazione, è che è assolutamente influenzato dalla nostra funzione, vale a dire... Uno può avere appunto un macellare totalmente inclinato o addirittura inverso, come dice l'ascoltatore, eppure con tutta una serie di esercizi di ginnastica, che però devono essere ovviamente indicati da un professionista serio, si può andare a modificare morfologicamente la forma e la lunghezza delle ossa. Senza e quindi ristabilire con un apparecchio che ce lo permetta, ma un apparecchio che semplicemente che si interpone tra le due arcate, in modo che non ci sia un chiavistello, un blocco quando uno stringe i denti. Non è mai troppo tardi, professore. Assolutamente. Anche gli adulti possono assolutamente farlo. Soprattutto gli adulti, perché è molto facile correggere un bimbo, ma è molto più complicato correggere un adulto. In realtà, siccome l'osso non è un pezzo di metallo che è stato messo lì e che rimane statico, ma è un continuo rimaneggiamento, si può assolutamente, anche in tardissima età, modificare la forma e la funzione delle ossa masticatori. Francesco, quindi questa è una bella notizia, sono sicura che Francesco ne approfitterà. Ma dottoressa Fantoni, noi diciamo sempre prevenire meglio che curare, individuare per tempo un problema dell'occlusione dei nostri bambini può sicuramente fare la differenza in risultati e soprattutto anche in tempi, in durata delle cure. Allora, certo. Ci aiuta a capire un'occlusione di un bambino, quando, a che età dobbiamo iniziare a guardarlo, portarlo dal medico, che cosa si può fare? Gli americani dicono a partire da 2 anni. Perché? Perché intorno ai 36 mesi ci sono già e ci dovrebbero essere tutti i denti da latte. E poi perché? Prima contatto con un dentista, lui dedicato, quindi capace di accoglierlo, e meno il bambino avrà paura in seguito, anzi si abituerà ad andare da un amico che lo aiuterà in tempo utile a evitare problematiche e affrontarle con minor dispendio, come giustamente diceva lei, dottoressa, di tempo, denaro e fatica. Quindi se non a 2 anni, almeno a 4, sì. Per vedere se ci sono tutti i dentini, se non ci sono abitudini viziate, succhiamento di dita o di pollice, disturbi della respirazione, ritardi di permuto, addirittura già malposizioni che si possono vedere anche guardando i genitori, perché noi siamo anche quello che i nostri genitori ci hanno dato, certo, come patrimonio genetico, e incominciare a vedere, se non per intervenire subito, per programmare dei controlli e seguire l'evoluzione nel tempo. Il Sistema Sanitario Nazionale poi fino a 14 anni rende queste visite, questi controlli gratuiti. Io lavoro per un'azienda ospedaliera che appunto esercita questo tipo di visite, che propone queste prestazioni, quindi approfittiamone. È assolutamente doveroso e possibile. Allora, io ho un messaggio che di Vera da Milano, a proposito di dito in bocca. Anche io il succhiavo, mettevo il dito in bocca e riuscivo anche con l'altro braccio a grattarmi l'orecchio e poi non sapevano più che cosa fare. Altro che, e avevo anche una copertina, va bene, ma comunque, poi ho smesso. Vera ci scrive: vorrei un consiglio per la mia bambina di 4 anni che ha il vizio di mettere il dito in bocca. Io ho già provato col mettere cose schifose sul dito, terrorismo psicologico, ma senza successo. Adesso gli incisivi sono talmente in fuori da non riuscire neanche a staccare a morsi con gli incisivi. Potete aiutarmi? Allora, io chiedo aiuto alla dottoressa Fantoni, ma chiedo aiuto anche alla dottoressa Schoss. Dottoressa Fantoni, che cosa farebbe se fosse al posto di Vera? Allora, che il dito vada tolto, perché nel senso non lo tagliamo, però no, senza tagliarlo. Allora, innanzitutto psicologia, essere positivi, mai punire perché mette il dito in bocca, ma premiare perché riesce a non metterlo. E scusate, proprio per fugare ogni allarmismo su questa influenza A suina, ma fare il punto della situazione di uno stile di vita corretto, se noi abbiamo un motivo in più per non mettere le mani che sono spesso sporche in bocca, che è per prevenire infezioni non solo la suina, ma di tanti tipi, otteniamo molti obiettivi con un gesto solo. E quindi attenzione per le malocclusioni, per tutti i germi batteri che possono arrivare in bocca. Diciamo ai nostri bambini che il dito serve per molte altre bellissime cose, per giocare con la plastilina, per accarezzare la mamma, un cagnolino, ma non in bocca, perché è un apparecchio che rovina i denti in questo caso. Dottoressa Scioss, abbiamo i mercati, ma un consiglio, un'indicazione per le mamme che si trovano con i bambini che o non vogliono lasciare il ciuccio o il dito, insomma, la dottoressa Fantoni diceva premiare piuttosto che punire o minacciare. Lei è d'accordo? Assolutamente. È molto importante essere rilassati coi bambini. Se noi siamo rilassati e non diamo tanto peso a questa cosa, è sicuramente meglio, perché spesso il bambino si attacca molto a qualcosa che gli viene proibita. Quindi stare... dolcezza. Dolcezza e calma. Dolcezza e calma. Riprendiamo con un sorriso, parliamo della nostra bocca e abbiamo Antonio dalla provincia di Vicenza che ci sta aspettando da un po'. Antonio, buongiorno. Sì, buongiorno. Lei... Sono Vercelli, non a Vicenza. Si è avvicinato, va bene. L'importante è che siamo insieme, Antonio. Sì. Ci racconti. No, il mio problema è solo questo, nel senso che io forse ho questo cruccio di non avere i denti che mi piacciono, cioè il mio dentista mi dice che sono sani, che certo non sono bianchissimi, però comunque lui mi dice che sono a posto così, però io continuo a non piacermi, cioè quando prima avete detto che uno si guarda allo specchio, io mi vedo i denti che non mi piacciono, cioè, tra l'altro sono anche leggermente distanziati, eppure continuo a non piacermi, non so se è un problema che ho io a livello mio, che ne so, psicologico. Mia moglie dice che va bene così, nel senso che nessuno mi ha mai detto niente, però io continuo a pensare questo. Lei non si sente a posto, Antonio? Io non mi sento a posto quando mi guarderò, eppure mangio bene, non ho nessun problema, i denti sono tutti miei. Eppure non so per quale motivo non mi sento a posto quando mi guardo allo specchio. Ma non le piace guardo i denti. Non le piace il colore, non le piace la forma. Sì, non mi piace il colore. No, la forma va bene, solo il fatto che sono leggermente distanziati, più che altro il colore e basta. Allora, sostanzialmente questo. Allora, forse ci vorrebbe un po' un'iniezione di autostima, ma di questo, per questo poi la affido alla dottoressa Scioss. Invece, professor Tramezzi, per il colore, beh, semplice si direbbe, no? Oggi assolutamente sì, ci sono dei metodi molto efficaci e non molto invasivi, ovviamente se utilizzati adeguatamente da un professionista, per sbiancare il dente, proprio cambiare il colore del dente con dei materiali, delle sostanze che fondamentalmente ossidano, quindi decolorano il pigmento, che poi sono a base di ossigeno, di perossido di idrogeno, insomma, perossido di carbamide. E poi comunque per il colore che è dato dal pigmento, dato dall'età, dalle abitudini magari alimentari, il caffè, magari le sigarette, ancora di più il sigaro, la liquirizia e tante altre sostanze, passare una sola volta al mese, ribadisco, una sola volta al mese, del bicarbonato di sodio purissimo, quello che si trova anche nei supermercati, che costa molto poco, dopo aver inumidito lo spazzolino, e riempito appunto di polvere di bicarbonato di sodio purissimo, passarlo sui denti rimuove il pigmento superficiale. Questa cosa non va fatta però tutti i giorni, assolutamente. Una volta al mese massimo. Assolutamente. E ad Antonio io consiglierei di parlare tante volte, andiamo dal medico, ma non gli raccontiamo tutto. Io credo che Antonio dovrebbe con il suo medico curante, col suo dentista, fare un po', far presente la situazione, dire io sono contento, i miei denti sono sani, vorrei averli anche più belli, che mi piacciono. Non solo, giusto? Ma magari può anche consultare altri colleghi, altri medici, anche perché oggi lo spazio, il diastema tra un dente e l'altro è molto semplice da chiudere, con degli apparecchi che sono assolutamente invisibili, sono fatti da mascherine preformate sulla misura ovviamente della bocca, e che in poche settimane possono chiudere gli spazi e risolvere quel problema. Allora andrei a Daria, che ci chiama da Bergamo. Buongiorno Daria. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io ho 50 anni. Sì. E poco tempo fa ho dovuto mettere problemi ai denti, uno scheletrato in bocca, no? Sì. Allora, io sono una persona, premetto, che sorrido molto, brava, mi piace sorridere, ecco. Però da quando ho questo scheletrato in bocca, io mi limito nel sorridere, perché penso che gli altri si accorgano di quello che io ho in bocca. E mi rende un po'... Cioè, come per dire, la frena un po', certo. Mi frena. E questo sembra che gli altri mi guardino i denti. Perché guardi, quando uno ha un complesso, sembra, dottoressa Schoss, che tutti guardino lì. Certo. Invece non è vero. No, che non è vero. Allora, professore, che cosa può fare Daria? Beh, intanto farsi un autoesame. Quindi andare davanti allo specchio, sorridere normalmente. Quando invece noi ci guardiamo i denti allo specchio, facciamo delle cose, delle smorfie orrende, che cerchiamo di far vedere addirittura i denti del giudizio là in fondo. Quindi fare un suo sorriso normale e vedere se questo scheletrato ha i ganci, come si usava più tempo, o agli attacchi, che generalmente sono più nascosti, se questi vengono messi in evidenza. Se questi vengono messi in evidenza con un normale sorriso, andrei dal dentista che gli ha posizionato lo scheletrato e chiedergli magari di spostare il gancio, di fare una modifica che spesso è fattibile. Altrimenti, se non si vedono questi ganci, ammesso che ci siano, vada tranquilla, continua a sorridere, non si crei un complesso, perché è stupido. È un po' come quando uno ha una scarpa sporca e è convinto che tutti gli stiano guardando le scarpe quando è sull'autobus. E certo, nessuno se ne cura. Dottoressa Fantoni, invece noi dobbiamo occuparci della bocca dei nostri bambini, controlli sin dalla tenera età, ma arriva il momento in cui a tutti i bambini, come mi scrivono diversi ascoltatori, viene proposto l'apparecchio. E sempre gli stessi ascoltatori dicono: noi siamo cresciuti senza apparecchi, adesso c'è questa moda. È possibile che tutti i bambini abbiano bisogno di ferri ferretti? Dottoressa Fantoni. Allora, diciamo che prima di tutto va fatto diagnosi, cioè cosa vogliamo per i nostri bambini in termini di salute, ma anche bellezza e armonia, come giustamente diceva il professor Stramezzi. Il sorriso bello è un sorriso che consente di respirare, di deglutire, di masticare, di parlare, di sorridere. Queste sono le funzioni della bocca. E i denti, quindi, e le ossa facciali che li sostengono, devono svilupparsi in modo da garantire queste funzioni. La diagnosi va fatta da un dentista che sia specialista per bambini in questi problemi e che valuti non solo attraverso un esame dei denti e della faccina, ma anche di altre componenti respiratorie, il linguaggio, che si aiuti con delle lastre che non sono dannose, ma che ci dicono se ci sono i denti e come stanno crescendo le ossa, e solo dopo proporre per delle problematiche realmente esistenti, che vanno o intercettate subito per poco tempo, cioè nell'età evolutiva, con anche apparecchiature mobili, o successivamente, quando ci sono tutti i denti definitivi con apparecchiature fisse, oggi molto confortevoli, in maniera che, ripeto, la salute e l'armonia e di conseguenza la bellezza che viene dal sapersi sani e piacevoli possa dare ai nostri ragazzi una sicurezza e un bel sorriso. Dottoressa Schoss, parlavamo di ragazzi, è importante che noi genitori, noi famiglia, insegniamo anche ai nostri figli a sorridere. Certo. È innato il sorriso, ma va coltivato. Io certo, ne sono assolutamente convinta, cioè aiutare i nostri ragazzi, anche i nostri bambini, farci aiutare da loro, che in questo caso sono davvero dei personal trainer, a prendere la vita con un sorriso, che non vuol dire vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, ma io credo che sia anche parte dell'educazione. Beh, anche vedere il bicchiere mezzo pieno non è poi una cosa così da buttar via. Perché è la stessa cosa vedere un bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno. Un bicchiere mezzo vuoto non porta certamente un sorriso sul viso. Un bicchiere mezzo pieno, sì, cioè c'è sempre una possibilità. Se noi viviamo pensando che c'è sempre una possibilità, è più facile che ridiamo con i nostri figli. D'altronde dovremmo essere capaci anche di riposarci, perché il sorriso, che come abbiamo detto in tutto questo, in questo programma, è un po' la faccia della nostra salute. Ha molto a che fare con come ci sentiamo. Se siamo certo. molto stanchi, è ben difficile ridere o sorridere. Oppure facciamo finta di sorridere, ma un sorriso finto fa pensare a una iena, fa pensare proprio il contrario di quello che noi vogliamo dire, vogliamo esprimere e comunicare. Quindi stare un po' tranquilli tutti quanti, trovare degli spazi in cui stare insieme con calma e un po' più riposati, che ne so, fare qualcosa insieme ai nostri figli di rilassante, andare a fare un giro in bici, andare a fare una bella passeggiata, guardarci un po' intorno insieme. Il sorriso viene spontaneo. E insegniamo ai nostri figli a sorridersi. Certo. Ad accettarsi. Abbiamo Emanuele da Bergamo, che voglio salutare. Emanuele. Buongiorno. Buongiorno Emanuele. Emanuele, buongiorno. Sì, buongiorno. Eccoci, ci racconti. Lei da Bergamo, quante volte sorride? Tante o poche? Ma, spesso. Bravo Emanuele, mi piace. Senta. però ho un problema alla mandibola, io ho 43 anni e ho un dolore spesso alla mandibola all'altezza dell'orecchio, sì? dove percepisco anche uno scatto e alcune volte addirittura mi dà la sensazione di che mi si blocchi la mandibola. Sì. Mi hanno consigliato di mettere un bite, mi hanno detto che dovrei metterlo per sempre, praticamente 24 ore su 24 per il resto dei miei giorni. Però io faccio molta fatica a portare questo bite, lo metto solo la notte. Certo. Perché mi causa un po' di senso del vomito e così via. Perché comunque qualcosa in bocca tutto il giorno. È pazzesco, io non riesco a metterlo. Ma secondo me, Emanuele, lei ha ragione. Allora, professore, ha ragione o no? Emanuele. Ha ragione, però allora diciamo che un bite, intanto se se si vuole si può anche molto ridurre proprio perché non dia problemi a chi. Ma parlate sempre di questi bite, che faccia hanno questi bite? Allora, ci sono due scuole di pensiero, una quella che seguo io e una quella invece che seguono che combatto, gli altri. Che io combatto. Sia imparziale? Sì, cerco di essere assolutamente imparziale. Allora, tutto nasce dalla posizione del mascellare superiore, che è dato fondamentalmente dalle due ossa palatine che sono l'arco, diciamo, della bocca, il tetto della bocca e anche il pavimento del naso. Quindi attenzione, se le ossa palatine non si sono aperte bene durante l'infanzia e la crescita, c'è una respirazione nasale carente e quindi andrebbero stimolate ad aprirsi. Quindi se abbiamo il palato stretto. Bravissima. Tanto per... L'altra cosa assolutamente importante da dire è che nel momento in cui io ho una mandibola che va ad articolarsi col mascellare superiore e la natura fa sì che comunque si articoli, sennò non potremmo masticare, è ovvio che è il piano superiore che deve guidare. Quindi per me un bite deve essere assolutamente liscio, scaricato e assolutamente superiore, più sottile possibile, non si deve né vedere né dare fastidio a, diciamo, in gola, nella parte molle del palato. Un'altra scuola di pensiero invece che segue, diciamo, gli apparecchi ortottici, li chiamano, che sono inferiori e che bloccano, posizionano la mandibola dove vuole il professionista, cosa che secondo me è sbagliata perché la natura è molto più brava di noi e mettendo un bite fatto bene superiormente la mandibola immediatamente cambia posizione. Il problema dell'ascoltatore La comunità scientifica cosa dice? Rimangono queste due scuole di pensiero, ma quale delle due dà migliori risultati? Mi scusi, per me assolutamente, e vi ho spiegato il perché, la prima quella del bite superiore. Sì, ma con i dati, con i numeri che lo provano? Sì, assolutamente. Con i risultati, ecco, lui ha una lussazione dell'articolazione temporomandibolare e teniamo presente un'altra cosa: la lussazione dell'articolazione temporomandibolare è l'unica che non impedisce la funzione. Cioè, quando noi lussiamo una caviglia, un polso, una cosa, un'articolazione qualsiasi, abbiamo rumor, tubor, dolor, calo, le funzioni lesa, cioè comunque si blocca la funzione. Mentre in bocca no. No, perché sennò l'uomo delle caverne sarebbe morto e forse non ci sarebbe più la specie umana. Però fare questo, cioè permettere all'articolazione di continuare a muoversi anche in presenza di una lussazione, costa un'enorme energia. Quindi una persona che ha un'occlusione scorretta non riesce comunque a esprimere tutta l'energia potenziale che hanno i suoi muscoli, e non solo la parte muscolare ma anche la parte mentale, e lo stress si combatte meno bene, eccetera, perché il nostro organismo ci protegge. per cercare di far funzionare questa articolazione. Ed è anche molto semplice risolvere il problema. Basta semplicemente far rilassare la muscolatura, perché la lussazione è data dalla contrazione di un piccolo muscolo, che è quello appunto che lui sente dolente vicino all'articolazione, che è il muscolo pterigioide esterno, che è quello che porta in avanti il menisco nel momento in cui noi apriamo la bocca. Basta far rilassare quel muscolo, quindi il bite, d'accordo, va portato sempre, però nell'arco di un paio di settimane, se è fatto bene, rilassa la muscolatura. Un po' come la fasciatura alla caviglia. No, meglio, perché mi sono allargata. Andiamo a lavorare sulle cause che hanno creato, cioè lo shiatsu, il rilassamento, i farmaci, sono tutte cose che aiutano a correggere gli effetti. Noi andiamo a monte, alla causa, eliminiamo la causa. E poi, se posso rubare ancora qualche secondo, una cosa importante: quante volte a me, ma credo a tanti altri bambini, è stato detto stai dritto, non stare storto, oppure i bambini che hanno una spalla più alta dell'altra. Queste al 90% di cose sono tutte cose che derivano da un'occlusione scorretta, perché il baricentro della bocca, nel momento in cui è falsato proprio per una asimmetria delle ossa mascellari, soprattutto la mandibola che è cresciuta storta in quanto il palato non si è sviluppato bene, porta comunque, per correggere questo baricentro, a delle tensioni muscolari, a una posizione della colonna scoliotica, che poi porta a tutta una serie di problemi in altri distretti dell'organismo. Vedete, quello che poi io studio e cerco di curare. Abbiamo Rita che ci chiama da Perugia. Buongiorno Rita, dobbiamo essere un po' rapidi, ma ce la facciamo? Speriamo. Buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie. Volevo porre questo problema: siccome proprio pochi giorni fa sono stata dal mio dentista, lui non c'era, però c'era il tecnico, quindi ho parlato con lui, in quanto io ho gli incisivi superiori, non quelli centrali ma quelli laterali, che sono in fuori, quindi avevo letto qualche cosa che si potevano mettere delle faccette e così risistemare un pochino tutta la situazione. Il tecnico invece mi ha spiegato, ha detto contro il mio stesso interesse, che non si poteva fare perché questi due denti in fuori lasciano uno spazio molto piccolo, quindi bisognerebbe rimpicciolire i due incisivi interni, che invece sono belli e sani. E adesso lei cosa ha deciso, insomma? Io al momento non ho deciso niente, quindi volevo sapere se è vero che io devo rimpicciolire tutti i denti per fare questa operazione, diciamo, se devo rimpicciolire i due centrali e poi dopo anche questi due laterali. Rita, io penso che anch'io, che non sono tecnica, ho capito il suo problema, ma penso che sia impossibile darle un consiglio sensato, approfondito, senza vederlo. In ogni modo il professore ci prova con... Assolutamente, non lo faccia, non rimpicciolisca i suoi denti, non crei lo spazio, rimanda i denti, ma semplicemente li sposti. Anche in tarda età, anche in età adulta, è molto semplice, soprattutto per due incisivi laterali che hanno poca resistenza, spostarli e riportarli in arcata, ridando luce e armonia al suo sorriso, senza rovinarli. E adesso io vorrei fare una domanda ai miei ospiti, anche a voi da casa. Sapete che cos'è la tabebuia? Una pianta officinale. Una pianta officinale. La dottoressa Schoss? Non lo so. È una corteccia della pianta officinale. Una corteccia, dice. Dottoressa Fantoni? Confesso di non saperlo, ma a questo punto l'uomo presente in studio pare abbia la risposta che per noi Ma noi abbiamo, vediamo se la risposta è giusta. Intanto anche magari i nostri ascoltatori vogliono sapere di che cosa stiamo parlando, perché sembra un nome un po' magico. Ma in linea con noi abbiamo il nostro dottor Marco Temporin. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Nutrizionista e specialista in igiene e medicina preventiva. Che cos'è? Ci ha preso il professore? Il professore ha indovinato. Bene, allora gli offriremo un caffè. Vincono gli uomini. Solamente in cioè adesso vincono gli uomini in assoluto. Vediamo, andiamo cauti, dottor Temporin. Allora, in un minuto, che cos'è e a che cosa serve? Allora, la tabebuia, detta anche l'apaccio, è un albero tropicale originario del Brasile, appartenente alla famiglia delle bignoniacee, il quale può raggiungere 40 metri d'altezza e i suoi bellissimi fiori variano dal rosa al violetto. Si utilizza la tintura madre, che viene esattamente estratta dalla scorza essiccata della pianta stessa. Magnifico. Sì. E cosa serve, scusi? Allora, i suoi principi attivi sono utili nella prevenzione e nel miglioramento delle capacità di difesa dell'organismo nei confronti delle infezioni microbiche. Quindi va bene per questo periodo? Beh, esattamente. Soprattutto l'abbiamo scelto apposta. Esatto, soprattutto nel periodo invernale può essere un valido aiuto assieme ad altri estratti naturali, quale la cerola, naturalmente ricca di vitamina C, nel migliorare la capacità di risposta ai malati, ai malanni causati dal clima freddo. Quindi, insomma, è una sorta di protezione e di ricostituente insieme. Bene, allora, si trova come? In gocce? La tabebuia si trova in gocce e può essere assunta da sola o con altri fitoterapici 2 o 3 volte al giorno diluita in acqua. Magnifico, dottor Temporin, noi ci sentiremo presto. Io devo salutare la dottoressa Fantoni perché dobbiamo chiudere. Grazie dottoressa per essere stata grazie con noi, l'aspettiamo. Voi. Allora saluto la dottoressa Schoss, grazie, con un sorriso, il professor Stramezzi che ci ha davvero grazie aiutato. Grazie a voi, saluti a tutti, anche la dottoressa Fantoni e la dottoressa Schoss. Torneremo ad occuparci di postura, occlusione, bite, anche mi chiedono il russamento e i problemi respiratori, tutti causati magari da problemi che noi non, di cui non, magari di questo palato troppo stretto. Vi devo salutare, vi do appuntamento a domani, voi non mancate. Come sempre vi invito a portare con voi un amico, un'amica, insomma a fare gruppo. Vogliamo essere in tanti ad occuparci del nostro benessere. Buonissima giornata e tanti sorrisi da Nicoletta Carbone. Essere e benessere.